Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno, buona domenica, benvenuti su Magazine 24, sono Nino Ciravegna. È domenica, quindi incomincerei con Famiglia Cristiana, che dedica la copertina a essere sacerdoti oggi e riporta una frase di Papa Benedetto XVI, l'audacia del Vangelo. Il racconto di Famiglia Cristiana su questo, come chiamarlo, vocazione, questa professione molto difficile in questo momento, soprattutto quando la Chiesa è travolta dagli scandali sessuali e dal forte calo delle vocazioni. Famiglia Cristiana racconta l'esperienza in diretta di due preti operai, Don Marco che fa lo spazzino nel biellese e Don Mario che fa l'artigiano del legno nel bergamasco. Racconta la loro vita quotidiana, il perché hanno fatto questa scelta, e Don Marco spiega: d'altronde anche Gesù, prima di predicare, ha lavorato per decenni come artigiano. Sono storie molto interessanti, molto concrete, che testimoniano un'esperienza particolare, che è incominciata negli anni 40 durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i primi preti operai lasciarono Parigi per seguire i deportati nei campi di concentramento nazisti. Famiglia Cristiana continua con lo sfoglio di Famiglia Cristiana continua anche con un interessante articolo sui giovani fantasma che non studiano, non lavorano e non imparano. Racconta questa fascia di quasi 2 milioni di ragazzi dai 15 ai 29 anni che sono a metà strada, nel nulla, nelle terre di mezzo, né scuola né lavoro, e che facilmente rischiano di perdersi o di prendere strade sbagliate. Ma Famiglia Cristiana si caratterizza sempre come un settimanale che denuncia un problema ma racconta anche esperienze concrete. In questo caso racconta l'esperienza della Città dei Giovani di Modena, che raggruppa giovani di 20 nazionalità appartenenti a 4 religioni che studiano, lavorano, fanno sport e comunque si abituano a lavorare in gruppo e a risolvere i problemi in gruppo. Un'esperienza molto stimolante. Sempre su Famiglia Cristiana mi permetterei di segnalare anche un'ultima cosa. Il tenore Andrea Bocelli, che finora ha venduto 70 milioni di dischi, un record difficilmente eguagliabile, che racconta la sua attività per i bambini di Haiti e presenta il concerto che sta organizzando a Milano il 30 settembre per raccogliere ulteriori fondi per questi bambini che hanno subito il trauma del terremoto di qualche mese fa. Passiamo a TV Sorrisi Canzoni, il settimanale specializzato nei programmi televisivi nel mondo dello spettacolo. La copertina è dedicata alle 5 guerriere dell'Abruzzo. Laura Pausini, Gianna Nannini, Lisa, Giorgia e Fiorella Mannoia, tramite le colonne di TV Sorrisi e Canzoni, presentano il doppio DVD che raccoglie le canzoni presentate allo storico concerto di un anno fa che si era svolto a San Siro, un concerto che ha raggruppato decine di artisti che si sono mobilitati per la ricostruzione dopo il terremoto, ed è stato un fatto abbastanza raro in un mondo dello spettacolo che è caratterizzato da protagonismi, da rivalità, da individualismi. Tant'è che queste 5 cantanti si presentano come "Insieme formiamo", è scritto su TV Sorrisi Canzoni, "un governo tutto al femminile in nome della solidarietà". Per questa iniziativa, che ha ovviamente uno scopo solidale e benefico, è prevista anche una buona copertura mediatica. Domani sera Matrix su Canale 5 dedicherà uno speciale a questa iniziativa, mentre il concerto si potrà vedere su Sky prima fila da fine mese, dal 28 giugno per la precisione. Il settimanale televisivo presenta anche la prima intervista a Sandra Mondaini, "La mia vita senza Raimondo". L'attrice racconta un po' come sta vivendo questi mesi dopo la morte di Raimondo Vianello, dopo un lungo sodalizio durato decenni e decenni, un sodalizio sia artistico che di rapporto familiare. E Sandra dice: "Non gioco più a carte, guardo poco la TV, faccio fisioterapia e ogni tanto telefono a Pippo Baudo, un vero fratello per me". Sandra continua, leggo sempre dall'articolo: "Un desiderio, vorrei sentire meno dolore perché a volte è veramente insopportabile. Raimondo sicuramente vorrebbe che trovassi la forza per sorridere, ma ancora troppo presto". E Sandra continua a spiegare, a raccontare di come sta cercando di superare questa enorme difficoltà. Un'ultima notizia da TV Sorrisi e Canzoni, è una trasmissione in programma questa sera 21:10 su Rai 1, Una voce per Padre Pio, condotta da Massimo Giletti e Alessandra Barzaghi. Quinta edizione di questa festa, serve per raccogliere fondi e mobilita una serie di cantanti e di testimonial che vogliono raccontare la loro esperienza, il loro attaccamento, la loro testimonianza di fede legata a Padre Pio. È il momento di Vanity Fair, che questa settimana varrebbe la pena di comprare solo per la frase che hanno messo piccolo piccolo in copertina, che dice: la stampa libera può essere buona o cattiva, quella non libera può essere solo pessima. Una frase che Albert Camus ha scritto 50 e rotti anni fa, ma che è di grande attualità. La copertina è dedicata a Maria Luisa Busi, che se n'è andata polemicamente contro la direzione di Augusto Minzolini, con una grande polemica il fatto che una conduttrice lasci spontaneamente la conduzione di un telegiornale è diventata talmente un caso che si sono mobilitate perfino le televisioni sudcoreane e americane. Maria Luisa Busi non risparmia le sue critiche al direttore, dicendo che nasconde la realtà del paese, che ha gestito malissimo le notizie del terremoto dell'Aquila. E poi anche un altro fatto scatenante era stata la notizia falsa dell'assoluzione dell'avvocato Mills, avvocato che era coinvolto in un processo per corruzione in favore di Silvio Berlusconi. Il telegiornale ha detto che era stato assolto, mentre in realtà la Cassazione aveva semplicemente ribadito che i reati erano andati in prescrizione, e questo, secondo Maria Luisa Busi, era stato un grave incidente voluto, così come erano stati nascosti lo scandalo delle escort e dei rapporti con i politici, liquidati da Minzolini come fatti privati di singoli cittadini. Maria Luisa risponde a Vanity Fair dicendo che lei non è contraria allo svecchiamento, non può essere contraria, lei che a 30 anni ha preso il posto di un mostro come Paolo Fraiese, ma semplicemente vuole, con il suo gesto polemico, rimarcare le deficienze di questo TG1 troppo ufficiale. Passiamo a un'altra notizia, una notizia che possiamo tranquillamente evitare di leggere. Sono le memorie, se possiamo chiamarle così, della Patrizia D'Addario, che era stata coinvolta in questo scandalo sul sesso e politici. Lei racconta il suo anno di solitudine dicendo che tutti l'hanno abbandonata, ma dimostra ancora una volta la sua classe quando dice: certi signori che in TV mi chiamano prostituta, io li ho visti, loro sì, con le prostitute vere, so cosa hanno fatto. Una grandissima mancanza di classe che ci permette di evitare di leggere questo articolo. Molto più divertente è un'ultima segnalazione che vorrei fare da Vanity Fair: Il Signore Desidera. Lo scrittore Mario Archetti si è iscritto alla scuola per maggiordomi di Milano e ha scoperto molte cose, ci racconta le sorprese nel seguire questa scuola che dura 4 mesi, e ci racconta, stupito, che esistono 8 posate per servire il pesce, cose di che noi comuni mortali non avremmo mai immaginato. La scuola deve essere molto interessante e molto curiosa. Per maggiori informazioni si può cliccare sul sito www.maggiordomi.it e si vedrà come si può accedere alla scuola. Bisogna essere selezionati, ci saranno lezioni di sartoria, lezioni della buona conversazione, mise en place, insomma tutte quelle cose che noi comuni mortali sogneremmo di avere invece di accontentarci di una normale badante. Magazine 24. Bentornati, riprendiamo la lettura delle nostre riviste. Partirei da oggi. Si può tranquillamente evitare di leggere Il Servizio di Copertina col titolo Veline da spiaggia. Le veline di Striscia la Notizia, che indossano i 50 costumi più belli e glamour dell'estate, sono una cosa assolutamente inutile. Mi concentrerei invece sul dossier dei privilegi. Oggi metto insieme un interessante dossier partendo dai privilegi del Parlamento. Dice: le donne vanno al lavoro a 65 anni, adesso quelle del pubblico impiego, mentre i deputati possono andare a 50 anni e vanno a 50 anni con delle cifre notevoli. Fa l'esempio oggi dell'ex onorevole Gambale, che a 42 anni prende 8.455 euro lordi al mese, Oliviero Di Liberto 6.200, Vittorio Sgarbi 8.500 euro, e c'è addirittura il caso di un onorevole che è stato alla Camera un solo giorno, Angelo Pezzana, e adesso prende di pensione 3.100 euro lordi al mese. Tra i privilegi riservati alla politica ci sono anche i 1.000 euro al mese lordi di rimborsi taxi, anche chi non prende i taxi come chi ha diritto all'auto blu. Ci sono le case, gli affitti delle case pagate. Sono tutti privilegi che la politica aveva promesso all'inizio di questa manovra di tagliare e di ridurre in linea con le spese e i sacrifici richiesti ai cittadini, ma che per il momento sono rimasti senza un seguito. C'è anche una parte sui privilegi dedicata ai VIP che lavorano per la televisione. Si va dai 1.200 euro di Bruno Vespa ai 700.000 euro di Santoro, agli 900.000 euro che verranno dati a Pippo Baudo per le trasmissioni relative ai festeggiamenti per l'Unità d'Italia. Proseguendo nello sfoglio di oggi, c'è una cosa molto divertente sui mondiali. Oggi ha chiesto a una serie di comici di raccontare il loro mondiale non potendo seguire la cronaca, e il risultato è molto divertente. Mi limito a due battute. Mago Foster che dice: un fioretto per far vincere la Coppa del Mondo agli azzurri, regalerei a sua insaputa una casa all'ex ministro Scaiola. Mentre invece Chiambretti dice: le vuvuzela fanno venire il mal di testa a tutti, forse sarebbe meglio le cornamuse, anche se fanno molto Abruzzo. Con oggi terminerei, passerei invece a Vita, il magazine del non profit che dedica un ampio spazio ai mondiali, letti ovviamente in una chiave non solo sportiva ma soprattutto sociale, e racconta di come sta cambiando l'Africa, di come è cambiato il Sudafrica grazie a questi mondiali, e fa anche un lungo reportage sui mondiali che non vedremo. E scrive Vita: cosa nasconde il sipario dei mondiali? Per capirlo occorre andare a mettere il naso nei sobborghi più caldi della città che ospitano le kermesse. Si scopre così che la pentola del paese di Mandela è sul punto di scoppiare. Il razzismo sta di nuovo mettendo a rischio la convivenza pacifica tra i gruppi etnici. Ci sono quindi reportage da Soweto, da Alexandra, da Kennedy Road. C'è anche un ritratto molto divertente, se si può definire divertente, ma abbastanza drammatico, sul presidente poligamo. Zuma, il successore di Mandela, direi che non sta facendo un buon lavoro, quindi il presidente poligamo non bastano tre mogli. E poi invece c'è un'esperienza che definirei interessante a Durban: va in campo un vescovo in palla, è il francescano Napier che ha ideato il progetto Church on the Ball, che apre ai tifosi parrocchi e oratori. E il vescovo dice: per noi lo sport è un valore fondamentale che vogliamo legare alla riscoperta della fede. Un po' un'esperienza che ha una tradizione in Italia legata agli oratori, alle feste degli oratori, alle attività pastorali e sportive che si svolgevano in questi luoghi. Sempre da Vita, un altro articolo che ritengo curioso è: a casa di Eto'o la scuola conta più del calcio. Si chiama New Bell il quartiere dove è nato il centravanti del Camerun e dell'Inter. Qui, scrivono su Vita, lo considerano tutti un amico e lui è impegnato in molti progetti sociali, e lo zio materno dice: il calcio riesce a pochi, la scuola serve a tutti. Mi sembra un bel esempio anche di impegno sociale di un calciatore che tutti ammiriamo. Concluderei con Vita, passiamo ora al Nouvel Observateur, settimanale francese che dedica la copertina ha ampio spazio interno a De Gaulle, in particolare a De Gaulle nella sua intimità, la faccia cachée, nascosta, dell'uomo del 18 giugno. Perché 18 giugno? Perché nel 18 giugno del 40 l'allora generale De Gaulle fece un discorso ai francesi dagli studi della BBC, invitandoli a resistere e assicurando, giurando che gli alleati e lui in particolare avrebbero fatto di tutto per battere i nazisti e i fascisti, spingendo molto sull'organizzazione degli eserciti e sui valori etici delle nazioni. Un discorso che è passato alla storia, anche se in quell'epoca pochi francesi riuscivano a sentire la BBC, però il 18 giugno è diventata una data fatidica, e da lì teoricamente si potrebbe riprendere l'idea della grandeur francese, di un solo soldato praticamente che da Londra lancia la sfida ai nazisti. Una grandeur che è durata fino al 1970 con la morte di De Gaulle e che continua tuttora, che i suoi successori cercano di ripristinare, anche se la situazione non è più come allora, anche se la Francia non è più virtuosa nei conti, non ha più il peso politico che poteva avere allora. Comunque il 18 giugno per la Francia è un momento importante. E il Nouvel Observateur fa 18 giugno, ricorda il 40 e 18 idee per rilanciare la Francia. Passiamo a Style, il magazine mensile del Corriere della Sera, che dedica la copertina a Alexander Stubb, il giovane ministro degli esteri della finanza, che sta mettendo un gruppo internazionale di esperti che lavorano per fermare le guerre. Infatti il titolo è Gli sconosciuti mediatori della pace. E Stubb, è interessante perché porta un'aria nuova all'interno della diplomazia europea. Il problema più grave è l'Iran, con i suoi progetti nucleari, ma non pensiamo mai a qualcosa di ancora più pericoloso, la siccità. Ci sono paesi che falliranno e chi fallisce fa cose disperate. E Stubb dimostra anche di avere un po' di senso dell'umorismo quando dice: Berlusconi dice che il vostro prosciutto è meglio della renna affumicata. È vero, non posso negarlo. Dice rispondendo a una polemica quando bisognava scegliere la sede dell'Agenzia Alimentare Europea, che poi era andata a Parma, appunto. Berlusconi diceva: non possiamo andare nel paese che mangia renna affumicata. E lui risponde in modo piuttosto spiritoso. Un'altra notizia. Allora, legato all'articolo di Stubb e alla diplomazia internazionale, c'è poi un interessante articolo di Francesco Battistini su Gli uomini nell'ombra, i portatori di pace. Battistini scrive: sono sempre in mezzo a qualche complicatissima crisi internazionale, lavorano contemporaneamente su più tavoli di trattative. Il loro scopo è uno solo: mediare con gente con cui di solito non si media affatto. Dal presidente dell'Iran al presidente della Corea del Nord. Parlano anche sette lingue, dando del tu a Putin, Mubarak e Obama. Sono loro che fanno il lavoro vero prima che i grandi presidenti si mostrino per la firma e le foto di rito. E tra questi portatori di pace, una carrellata molto lunga, c'è anche un italiano, Andrea Angeli, che ha lavorato su tutti i principali scacchieri internazionali, incominciando a lavorare con Bettino Craxi fino ad adesso. Bene, questo è tutto. Nino Ciravegna vi ringrazia dell'attenzione. Magazine 24 torna sabato prossimo e in bocca al lupo alla nazionale. Grazie e a risentirci.